ciao. Chi è, chi è? Io, Gio Marino, ciao Antonello. Ciao Antonello, Sto provando i barattini di Bacchisico. Ah, quella con tanta gissata. Quello che non comprava se qui in cima, ho preso adesso. Ho visto, quando l'ho preso la porta che c'ha i pulsantini per avere 120 canali. Comunque sta uscendo bene. Beh, sta uscendo, c'era il microfono, non funzionava, allora ho cambiato la cassa di un'altra, capito? Di cosa? Di videocitofone. No, si sente bene, va, sta funzionando bene. Era ora, cazzo. Speriamo bene, Già perfetto. Io ho aumentato le luci, la parte del visto che ce l'avevo già modificata. Allora che toccato. Il frequenzimetro è a posto, adesso segna la frequenza giusta, dura segnava 12. E le altre cifre non funzionava, cioè non segnava nulla. Adesso è a posto. Ma scaldava però, dice che scaldava molto, non lo scaldava si bloccava. Beh, c'è acceso tutto il giorno io, penso che non si blocchi, almeno spero. Perlomeno, caldo, già è caldo dietro, vabbè ci sono 30 gradi dietro casa quasi, perché sono vicino alla finestra io. Bisogna provare infatti a parlarci un po', a vedere un po' se scalda, se si blocca, capito? Vedere un po', perché prima si bloccava quando scaldava. Vabbè, meglio che funzioni bene, va. Ma si bloccava nel senso che la potenza scendeva a zero oppure... non lo so, oppure si mancava la radio. Comunque, se rimane come adesso è perfetto, per cui sarà soddisfatto, va. Per la vera sta funzionando bene, io l'ho visto da stamattina acceso, l'ho finito poco fa perché stavo diventando pazzo per cercare una capsula, e non sono riuscito a trovarla in un microfono, diciamo lui. Infatti c'è un microfono grande con la tastiera, e quindi gli ho messo la capsula grande dentro. E a me non funziona benissimo, c'è una bella applicazione, come tipo di capsula, capito? Va bene, io sento bene, per cui la radio è perfetta. Vediamo un po', allora. Allora dai, stasera almeno lo prova. Se vuole passare già non c'è problema, non mi ricordo mai il numero del telefono suo, nel caso magari entra, io dici, se vuole venire a casa già è parecchio di suo nostro, anche domani, non lo so come vuole lui. Se lo sente glielo dico. E riusciva a sentire basso il radio, riusciva a capire perché, a me adesso esce come si deve. Perlomeno, sta funzionando bene, per cui dovrebbe essere sempre così, speriamo. E la parte che c'era prima era tutta quanta butta male, infatti come sono dovuta eliminare per forza, capito? Come siamo andati a risaldare, mi è rimasto così in mano, mi è rimasto, figura di tu. C'è questa capsula di costo. Di citofere. È una bomba, questa capsula. Esce perfetta. Quando l'ho fatto la prova ho dovuto passare il proprio volume a zero del saltronetto. Se no qui si schiava addirittura. L'hai messo una capsula di citofere, lo sai? Sì, di citofere, sì. Vabbè, cazzo, più bene così. Vedi, certe volte anche con le capsule vanno bene in certi apparecchi. Io l'avevo messo, non mi ricordo, una l'avevo preso, o forse ce l'ho ancora con la capsula, il citofono di campagna, siccome l'avevo cambiato e l'ho smontato e la capsula l'avevo tolta, dovrei averla. Dove sapete la sì. Se ce l'ha basta pensatela. Basta cercare un involucro di qualche microfono normale, magari che ci sta dentro, ce la piazzi e sei tranquillo. Ehi, ehi, mi stavo chiamando, Antonio, ci sentiamo dopo. Ehi, d'accordo, ok. Marchisio, Marchisio, Marchisio, ehi, Marchisio, Marchi, attento, sono Marchisio, beh io ti sento, tu che lo senti a me, perché sei basso di radio, ma quello che c'ha, che ti stava mettendo a passare Antonello, l'ho sentito Antonello, dice che è pronto l'apparecchio, infatti stavo uscendo bene, stavamo parlando insieme stasera con Antonello, la radio è buonissima, ma lo sta provando e già uscì, va bene, la radio era abbastanza buona, perfetta, così che infatti è perfetta la radio, me la penso adesso, se vuoi salire stasera oppure domani, così ha detto infatti, capito? Comunque la radio dice che è a posto, l'ha cambiato anche la capsula, l'ha cambiato, e la radio è bellissima, ok, d'accordo Macchi, dai, ci sentiamo, dai, saluto di casa, ci sentiamo domani Macchi, buon proseguimento, ciao, ok, ciao, chiedo.